L'assemblea a cui partecipavano una trentina di realtà, che sono arrivate da tutte le parti d'Italia, ha fatto una prima analisi su quelli che sono stati i giorni che ci hanno separato dal primo coordinamento nazionale, dalle lotte di questi ultimi giorni, ha ascoltato attentamente i delegati di Milano che hanno spiegato un po' quello che è successo in particolare a Milano in questi ultimi periodi, dopodiché pensato di rilanciare la lotta fissando uno sciopero nazionale degli autotramvie di 24 ore per il 26 di gennaio, perché di fronte alla rabbia che tutti i lavoratori esprimono nelle città di appartenenza, e si è pensato di dare a breve scadenza una risposta per rimarcare ancora una volta con forza la nostra contrarietà, direi la contrarietà praticamente di un'intera categoria all'accordo del 20 dicembre che ha di fatto riconosciuto solo in parte quello che tutti noi consideravamo il dovuto, cioè quei 106 euro di una tantum che secondo noi ci sono assolutamente dovuti.